Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Aggiungo che la presenza degli organici di alcune organizzazioni non governative, di persone con un profilo non collimante con quello dei filantropi, appare di indubbia rilevanza e giustifica, a mio avviso, delle indagini in tal senso. Questo è un punto sul quale io ritengo che venga posta la massima attenzione. Come sentite, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, continua questo dibattito accesissimo, come dicevamo in queste settimane, come vi ho fatto sentire più volte proprio all'inizio di Effetto Notte, il dibattito su queste accuse del procuratore di Catania sulle presunte collusioni tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. A questo punto, come era stato annunciato nei giorni scorsi, il procuratore di Catania Zuccaro è stato quindi invitato a essere audito in Senato per parlare chiaramente, dire quali sono le sue tesi, e sentiremo vari audio, vari passaggi di questo discorso, di questa audizione che ha tenuto Zuccaro oggi al Senato, e anche una risposta di alcune organizzazioni non governative, per esempio Medici Senza Frontiere. Quindi ci occuperemo di questo tema delicato, che è diventato anche molto politico, con schieramenti contrari, soprattutto da una parte il PD, che difende in particolare le organizzazioni non governative, che continua a ripetere: qui ci vogliono prima di tutto prove, ci vogliono delle accuse specifiche, dei nomi e cognomi, e dall'altra parte, per esempio, in particolare il Movimento 5 Stelle e Lega, che difendono invece il procuratore Zuccaro. Poi seguiremo invece un altro dibattito, che è quello già cominciato tra i due contendenti alle presidenziali francesi. Sapete che domenica, il 7 maggio, si voterà in Francia. È veramente avvincente questa sfida tra Emmanuel Macron, il centrista, leader del movimento En Marche, e Marine Le Pen, invece leader del Front National, dell'estrema destra. Vogliamo già sentire un Macron che vedo a reti unificate in Francia. Puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières. Critica la Le Pen e dice: voi continuate a dire che l'Europa è in difetto, che è troppo dura per noi, l'austerità, eccetera, eccetera. Poi comunque seguiremo e ne parleremo naturalmente in italiano. Per la vostra interazione con Effetto Notte, 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, oppure, è sempre lì per voi, giorno e notte, la pagina Facebook di Effetto Notte. E direi, come sempre, prima di approfondire i vari argomenti, vi racconto in breve la giornata. Migranti in audizione al Senato, il procuratore di Catania Zuccaro insiste: tra le ONG non sono tutti filantropi, da dove arriva il denaro? E sottolinea: è impossibile ospitarli tutti. Legittima difesa, no di Berlusconi, salta l'accordo, non basta l'emendamento PD contro le aggressioni di notte in casa. All'Italia il governo assicura: niente spezzatino, va venduta intera. Presidenziali francesi a reti unificate stasera, l'ultimo duello tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del ballottaggio di domenica. Brexit, i costi del divorzio del Regno Unito dall'Europa sono il terreno del primo duro scontro tra Bruxelles e Londra. Siria, secondo Long, un ponte per donne e bambini sarebbero stati sgozzati in un attacco dell'ISIS. L'anziano spinto giù dagli scogli in Puglia, fermati due minorenni accusati di omicidio volontario e rapina. Roma, un senegalese muore dopo controlli antiabusivismo nella capitale. Gli africani accusano i vigili, ma la polizia precisa: nessun inseguimento. E per il calcio è la sera di Monaco-Juventus, che si giocano l'andata della semifinale in Champions. Partiamo quindi dalla polemica sui migranti. Come sentivate, è tornato in Parlamento il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, e oltre a ribadire alcune delle affermazioni già fatte in passato, avvisa sulla sostenibilità dell'accoglienza. Vi sono però poi anche altri interessi, e tra questi la impossibilità, a mio avviso, di ospitare in Italia la migrazione di carattere economico. Il procuratore Zuccaro insiste, anzi rilancia, e si spinge fino a una valutazione politica di questo tipo in audizione difesa al Senato, dove è stato sentito oggi. Il procuratore chiede la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria sulle navi e chiede che vengano messe a disposizione della Procura di Catania le intercettazioni delle comunicazioni satellitari. Smentisce infine di avere come fonti i servizi segreti. Ma la posizione di Zuccaro non è confermata dalle audizioni della mattinata. In commissione difesa al Senato ha parlato l'ammiraglio Donato Marzano della Marina Militare e ha detto che non esiste alcuna evidenza di manovre delle navi dell'ONG che abbiano costituito intralcio alla Marina. Ancora di più, il controammiraglio Nicola Carlone della Guardia Costiera al Comitato Schengen ha detto di non avere prova di presunte complicità. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, poi torniamo naturalmente a approfondire questo argomento nel corso di questa puntata di Effetto Notte. A proposito di migranti, un senegalese morto oggi a Roma dopo una serie di controlli antiabusivismo. Gli africani accusano la polizia municipale, che però si difende e precisa la dinamica dei fatti con, sentiamo, Antonio Di Maggio, vice comandante della polizia municipale. Allora, questa mattina sei agenti del primo gruppo del centro storico sono intervenuti per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale presso l'ospedale Fate Bene Fratelli, nei ponti che voi potete vedere alle mie spalle. Sono intervenuti per sequestrare le merci che venivano vendute abusivamente. Intorno alle ore 14 si è diffusa questa voce, non so messa in giro da chi, diffusa da chi, secondo la quale questo ragazzo, che purtroppo è deceduto qui a pochi metri da noi, questo ragazzo di nazionalità senegalese era deceduto a causa di un inseguimento da parte di nostro personale. Smentisco categoricamente ciò, è completamente destituita di fondamento questa ricostruzione dei fatti. E adesso la politica italiana con il tema della legittima difesa. C'è stato il no di Forza Italia e quindi è saltato alla Camera l'accordo sulla legge sulla legittima difesa dopo che si era arrivati a un sì su un emendamento PD che considerava legittima difesa la reazione a un'aggressione compiuta di notte in casa. Critico Berlusconi, leader di Forza Italia, dice: abbiamo fatto il possibile per migliorare il disegno di legge, ma il testo finale non è certo adeguato al bisogno di sicurezza degli italiani e a ciò che tutti gli italiani si attendono. Una legge, dice, in grado di tutelare le persone per bene quando sono aggredite, quindi continua il percorso, la discussione sul disegno di legge relativo alla legittima difesa. Per quanto riguarda invece le primarie del Partito Democratico, che ci sono state domenica con la vittoria di Matteo Renzi, sapete che ci sono state polemiche sui risultati da parte degli altri due sfidanti alle primarie, Orlando e Michele Emiliano. Il ministro della giustizia Orlando, a carta bianca su Rai 3, ha detto: non contesto niente, qualche componente della commissione non ha avuto tutti gli elementi definitivi, ma il risultato dal punto di vista politico non cambia molto, dice, se riuscissimo a dare risultati in tempo certo e trasparente sarebbe meglio. E per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nell'anticipo del suo discorso che tiene all'Università Americana di Harvard, ha scritto: nei prossimi mesi completeremo il processo condiviso di scrivere il programma di governo, che sarà pronto per fine luglio. In settembre leggeremo, dice Di Maio, il candidato premier, identificheremo i ministri che saranno presentati ai cittadini italiani prima delle elezioni politiche. Nel 2018 l'Italia, dice ancora Di Maio, potrebbe avere il primo governo fondato sulla democrazia diretta. E sempre relativamente ai 5 Stelle c'è una nuova polemica che riguarda i vaccini dopo un articolo pubblicato oggi dal New York Times che accusa il movimento di aver portato avanti una campagna antivaccini. Populismo, politica e morbillo, l'editoriale del New York Times che attacca Beppe Grillo. In Italia il Movimento 5 Stelle, scrive il giornale, ha fatto attivamente campagna su una piattaforma antivaccini, ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni ed autismo. La diffusione del morbillo dovrebbe suonare come un allarme molto forte. I 5 Stelle replicano: è una balla, così Giulia Grillo. Sarebbe veramente poco consono a qualunque forma di intelligenza dire di essere contro i vaccini, come dire di essere contro gli antibiotici o contro gli antinfiammatori. E Beppe Grillo si giustifica anche sulla mammografia: è utilissima, stravolgono le mie parole. Ma intanto spunta un video di uno show del 98. Il principio del vaccino è: prendi un bambino sano, che non ha neanche un anno, gli inoculi un virusino piccolo in circolo. Oltre al virusino c'è anche un po' di mercurio. E allora abbassa i sistemi immunitari. Ma intanto attaccano Matteo Renzi e il PD, così Alessia Morani. Hanno un atteggiamento irresponsabile, dovrebbero chiedere scusa a tutti i cittadini italiani per i danni che stanno facendo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora il tema della maternità, 800 euro ad ogni famiglia italiana in cui quest'anno sia arrivato o stia arrivando un nuovo bambino anche adottivo, parte quindi l'operazione Mamma e da domani sarà disponibile la procedura telematica per inoltrare la domanda di contributo previsto dalla legge di stabilità dello scorso anno. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque entro un anno. Stamattina a Cuore Denari è intervenuta Maria Grazia San Pietro dell'INPS. È possibile presentare domanda, una domanda telematica direttamente utilizzando il PIN cittadino, rivolgendosi ad una sede dell'istituto, un'agenzia, una direzione provinciale, ovvero recandosi ad un ente di patronato. Non c'è necessità di fare una corsa al bonus perché si tratta di una misura prevista nella legge di stabilità del 2017, però introdotta come riforma strutturale, per cui non c'è un problema di budget, non c'è un problema di finanziamento. In queste settimane ho letto anche di una corsa al bonus nel timore che finiscano le risorse disponibili, in realtà questo rischio non c'è. E poi l'altro tema, sempre politico anche, oltre che sociale, la violenza contro le donne. Domani, giovedì 4 aprile, in Senato alle 17, il senatore del PD Claudio Moscardelli affronterà in una conferenza stampa il tema della violenza contro le donne, che ha assunto da tempo, lo sapete, connotate di una vera e propria emergenza nazionale. Per questa ragione il senatore Moscardelli ha presentato un'interrogazione urgente sottoscritta da oltre 20 senatori del PD per chiedere al ministro dell'Interno se non ritenga opportuno adottare con la massima urgenza atti di indirizzo alle forze dell'ordine per garantire tempestive misure di monitoraggio e intervento a protezione e sicurezza delle donne vittime di minacce e atti persecutori. E visto che c'è il nostro Dario Ricci collegato da Monaco, dal Principato di Monaco, per Juventus Monaco. Dario. Il gol della Juventus, sono Higuain, un contropiede orchestrato da Dybala, sulla destra Dani Alves, è volato il cross, arretrato Rosa Parra all'altezza del dischetto, è arrivato Gonzalo Higuain di destro, ha battuto Subasic, Juventus in vantaggio per 1-0 quando siamo al 29° di gioco. Una Juventus che aveva iniziato molto bene a controllare la gara, ma poi è uscito fuori il Monaco al 16° vicinissimo al vantaggio con una deviazione di Mbappé, prodigioso Buffon nella respinta, così come prodigioso era stato al 19° a salvare su un colpo di testa ravvicinato di Radamel Falcao. Juventus che stava soffrendo malgrado la presenza in campo da titolare del primo minuto di Barzagli, Allegri l'ha scelto al posto di Quadrado per coprire maggiormente la difesa bianconera, poi nell'istante Roberto ha incomentato la linea, il contropiede che era praticamente raccontato in diretta con Dybala che ha innescato Dani Alves, l'assist per Gonzalo Higuain e il gol, 30° di gioco in questo istante a Luise di Monaco, Monaco 0 Juventus 1. Grazie Dario, neanche l'avessimo fatto apposta, non era per niente contento Dario Ricci. Poi ci collegheremo naturalmente ancora con lui, con il Principato di Monaco, dove si gioca appunto Monaco-Juventus. E adesso parliamo di Alitalia, niente spezzatino per la compagnia, per un rilancio si deve arrivare alla cessione dell'intera azienda, questo è l'obiettivo che si pone il governo all'indomani del commissariamento col ministro dello sviluppo Calenda, che critica il management e definisce errore la scelta di gestire da Abu Dhabi, dove sta Etihad, la compagnia. E poi dall'estero arriva questa terribile notizia, tanto per cambiare, che riguarda la Siria. Sono in gran parte donne e bambini, alcuni dei quali sgozzati, le vittime dell'attacco compiuto nella notte tra lunedì e martedì dall'ISIS contro un campo di profughi siriani e iracheni nei pressi della frontiera dei due paesi. Lo riferisce all'ANSA Luca Magno, che è responsabile del progetto sanitario Un Ponte Per, che è l'organizzazione non governativa italiana che opera in quell'area dell'attacco. Brexit, la prima ministra britannica Theresa May si è recata oggi dalla regina Elisabetta II a Buckingham Palace per informarla dello scioglimento del Parlamento in vista del voto anticipato il prossimo 8 giugno. A proposito del futuro divorzio con l'Unione Europea, la May ha detto che qualcuno a Bruxelles non vuole il successo dei negoziati e con le minacce sulla Brexit i politici dell'Unione Europea vogliono influenzare, dice la May, il risultato delle elezioni di giugno. Una delle grandi, delle ultime polemiche riguarda il costo di questo divorzio. Quanto dovrà pagare la Gran Bretagna al momento dell'uscita del paese dall'Unione? Sulla fattura britannica non mancano voci, stime e fughe di notizie, ma la realtà è che il totale è molto incerto. Il capo negoziatore dei 27, Michel Barnier, non ha voluto offrire cifre dopo che il Financial Times ha stimato la fattura a circa 100 miliardi di euro. L'ex ministro degli esteri francese ha precisato che bisogna decidere la metodologia di calcolo prima di poter stimare un totale che si baserà, prima di tutto, sul bilancio comunitario 2014-2020. La questione è delicata e rischia di avvelenare ancora di più il già difficile rapporto tra Londra e Bruxelles. La Gran Bretagna non vuol sentir parlare di impegni finanziari prima di trovare un'intesa sul futuro accordo di partenariato, mentre per i 27 un'intesa finanziaria è preliminare a qualsiasi accordo sulla futura relazione tra Londra e Bruxelles. Il negoziato sulla Brexit dovrebbe entrare nel vivo entro metà anno, dopo il voto anticipato inglese che si terrà l'8 giugno. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Dalla Gran Bretagna alla Francia sentiamo un pezzettino di Marine Le Pen, TV unificata in Francia per il confronto. Des chômeurs supplémentaires. Or, tant qu'on ne changera pas le modèle économique qui a été défendu par le système, monsieur Macron qui est derrière vous avec tous les ministres socialistes là que vous avez reçus, qui vous soutiennent, parlando del programma economico del governo socialista, naturalmente criticando. Anche se vedo Macron più teso nel dialogo, nel confronto, Marine Le Pen sembra più tranquilla. Comunque, tra poco seguiremo e analizzeremo e parleremo e commenteremo questo ultimo duello prima del ballottaggio delle presidenziali francesi del 7 maggio e domenica prossima. Per quanto riguarda, tornando in Italia, la cronaca, sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario a scopo di rapina i due minorenni di 17 e 15 anni che ieri hanno spinto in mare dalla scogliera due anziani provocando la morte del 77enne Giuseppe Di Bello. I fermi sono stati disposti dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Bari e i due ragazzi sono attualmente detenuti nell'istituto minorile Fornelli di Bari. Per chiudere, allora, per il calcio ci siamo già aggiornati con Dario Ricci dal Principato di Monaco con la Juventus in questa semifinale di andata della Champions, che per ora è in vantaggio di 1-0 sul Monaco. E poi, sempre per il calcio, questa dichiarazione di Gabrielli, capo della polizia, ascoltato oggi dalla Commissione Antimafia, che ha detto: allo scorso 31 marzo, quindi fino al 31 marzo, sono oltre 165.000 gli uomini dei contingenti delle forze dell'ordine impiegati in questa stagione nelle partite di calcio. È un dato, dice, che dovrebbe far accaponare la pelle, un lusso che questo paese non si può permettere, come non essere d'accordo il fatto che ogni volta che c'è una partita bisogna dispiegare un esercito con tutte le energie, il lavoro, i costi che vengono impiegati. Dice Rosy Bindi della Commissione Antimafia: condivido questa affermazione ed è proprio perché c'è un investimento così forte che se uno sgarra dovrebbe pagare. Bene, direi che possiamo fermarci per aggiornare invece chi si sta muovendo, chi sta viaggiando. Vi ricordo, per la vostra interazione con Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Dice questo ascoltatore: complimenti a Dario Ricci, degno di un telecronista della BBC Verify. Dice: va bene, faremo poi complimenti a Dario Ricci. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme, c'è già chi esulta per il gol della Juventus che abbiamo detto proprio in diretta, abbiamo dato neanche a farlo apposta nel momento in cui ci siamo collegati con Dario Ricci nel Principato di Monaco. È arrivato proprio in quell'istante il gol della Juventus che per il momento è in vantaggio per 1-0, per chi fosse interessato, sul Monaco. Ma adesso parleremo in francese di Francia, nel senso, naturalmente anche il Principato di Monaco parlano francese, ma qui parliamo proprio di Francia perché vedo in diretta su France 24, 24 il duello, l'ultimo duello TV tra Emmanuel Macron, candidato centrista alle presidenziali francesi, a ballottaggio si sfiderà Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra, del Front National, e il 7 maggio si deciderà chi sarà il nuovo, la nuova presidente della Francia. Tra poco seguiremo altri estratti di questo dibattito unico e ultimo come duello TV di questa campagna francese, molto vivace e appassiona molto, anche perché sono veramente due personaggi di grande personalità tutti e due. Però adesso vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali. A parte questo, un ambulante senegalese muore fuggendo durante un blitz antiabusivi a Roma. I senegalesi dicono l'hanno investito i vigili, ma la replica è falso. Chiede un ascoltatore come è morto. Allora, secondo alcune testimonianze sarebbe morto di infarto, secondo qualcun altro sarebbe stato investito dall'auto delle forze dell'ordine, però appunto è una situazione ancora molto in sospeso. E poi Zuccaro, il procuratore di Catania, con il procuratore che è al centro di queste polemiche per le accuse alla eventuali collusioni tra le ONG e i trafficanti di esseri umani, è tornato oggi in Senato in una nuova audizione e ha ribadito le sue accuse dicendo che non tutti tra le ONG sono filantropi, e il ministro della giustizia Orlando dice nelle parole del PM: comunque non vedo illeciti disciplinari, quindi non sarà sanzionato in ogni caso. E poi no di Berlusconi, salta l'accordo sulla legittima difesa in Parlamento. Per quanto riguarda l'Italia, il ministro dello sviluppo Calenda assicura: niente spezzatino, la vogliamo vendere intera. E per quanto riguarda il divorzio di Londra dall'Unione Europea, quindi la Brexit, Londra attacca l'Unione Europea: non all'Unione Europea non pagheremo mai 100 miliardi, quindi c'è questo scontro sui costi di questo divorzio. E poi, a proposito della vicenda dell'anziano spinto dalla scogliera in Puglia che è morto ieri, sono stati fermati due minorenni accusati di omicidio volontario. Vogliamo sentire ancora qualche passaggio di questo duello televisivo prima del ballottaggio. Marine Le Pen. C'est ce que vous avez organisé lorsque vous étiez à la tête de la banque. Madame Le Pen, vous savez, j'ai nous devrions avancer, M. Macron. È giusto per fare così un po' di ambiente, per dare la sensazione di qualcosa che sta succedendo effettivamente in diretta in Francia, a reti unificate, perché già con i duelli italiani, diciamo, televisivi, prenderli nel momento giusto è difficile. Qui capire di cosa stavano parlando, anche se insomma capisco abbastanza il francese, è complesso, ma a voi ovviamente non interessa più di tanto quello che in francese stanno dicendo, ma capire a questo punto le due personalità e quali sono i programmi dei due candidati. Marine Le Pen, ricordo appunto, leader del Front National, candidata dell'estrema destra; Emmanuel Macron, candidato centrista, ex ministro dell'economia del governo socialista Hollande, entrambi, dicevo, personaggi di grande personalità, entrambi carismatici, ognuno a proprio modo. Marine Le Pen da tempo rappresenta un po' in tutta Europa il riferimento per tutti i partiti euroscettici, anche per quanto riguarda i concetti di sovranità monetaria, di chiusura delle frontiere. Fra l'altro Marine Le Pen rappresenta l'epilogo, almeno per ora, della parabola del clan Le Pen dagli anni 70 di suo padre Jean-Marie Le Pen, con Ordine Nuovo, la fiamma tricolore, ispirata al movimento sociale italiano. E poi la rimozione di Marine, lei è stata la leader della svolta perché nella sua ambizione di potere ha in qualche modo fatto un maquillage al Front National del padre, lo ha direttamente rottamato, scaricato completamente. E Macron, 39enne, dalla splendida carriera professionale e politica, con questa lunghissima, forte storia d'amore di cui si è parlato molto con la sua ex professoressa, tanto più grande di lui, che è stata praticamente la sua pigmaliona, e continua questa storia da tanti anni. Lui è accusato di essere un socialista, ma che in realtà è stato anche un ex banchiere. Ne parliamo comunque con Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villafranca. Buonasera a voi. E con Francesco Maselli, giornalista che vive a Parigi, scrive per diverse testate e cura una newsletter pubblicata su il magazine del Sole 24 Ore. Buonasera Francesco. Buonasera, buonasera. Allora Francesco, per quanto riguarda la parte più anche di cronaca del dibattito, io ho le immagini davanti mute, vedo la Marine Le Pen molto sorridente, molto tranquilla, almeno apparentemente, e vedo invece Macron un po' più teso in questo confronto televisivo. In realtà il dibattito si sta strutturando in una sorta di wrestling, perché diciamo i due candidati, soprattutto Marine Le Pen, sta cercando di spostare la contesa sul personale, cioè continua a parlare del passato di Macron, evitando di rispondere alle domande che le vengono poste dai giornalisti. Questo chiaramente non le fa fare una bella figura dal punto di vista, diciamo, personale, però in questo modo lei sta evitando di parlare dell'economia, che è il suo punto debole, costringendo Macron a difendersi per quello che ha fatto in passato. Per esempio, quali sono queste accuse per il passato di Macron? Beh, per esempio lei a un certo punto l'ha chiamato signor ministro dell'economia, come se lui fosse ancora ministro dell'economia di Hollande, per cui sta cercando in qualche modo di legare il suo passato al governo con il suo presente. Lui si è difeso dicendo a un certo punto: guardi che noi non stiamo parlando di quello che abbiamo fatto finora, ma del nostro progetto per i prossimi 5 anni, per cui la prego di rispondere alle domande. Però è chiaro che non è facile per lui riuscire a riportare il dibattito su temi concreti. Cioè, perché l'accusa, scusa Francesco, l'accusa da parte di Marine Le Pen è: facevi parte di questo governo che sicuramente non esce bene da questa legislatura, esatto, e quindi è inutile che parli di un futuro migliore in questo senso. Esatto, quindi. E tra l'altro l'ho anche criticato per il fatto che lui è stato banchiere, quindi rappresenterebbe, cito, interessi privati e non pubblici. Gli ha detto proprio così, per cui è chiaro che per Macron è complicato avere a che fare con un avversario che lo attacca continuamente sul personale, almeno è quello che è successo sinora, e poi tende a non rispondere sui temi di fondo. Per capirci, diciamo, in un'intervista che è stata fatta la settimana scorsa, a un certo punto le è stato detto: ma questi dati dicono che da quando la Francia è entrata nell'euro è cresciuta, non c'è stata la crisi che lei sta dicendo, e lei ha risposto: ma i dati sono falsi. Che è un po' quello che diceva Trump, no, durante la campagna americana. È molto complicato avere a che fare con una persona che dibatte con lei, e a un certo punto magari le dice: quella che lei, su cui lei è seduta, non è una sedia ma è un cavallo. Lei non sa come rispondere, perché chiaramente questa cosa è falsa, ma come fa a rispondere? Non è facile, per cui chiaramente sta cercando di spostare il dibattito su questi temi qua. Vedo anche una dichiarazione di Marine Le Pen che dice: lei è il candidato della globalizzazione selvaggia, dell'uberizzazione, da Uber, della precarietà, dice, con quel sorriso da passaporto. Insomma, queste sono cose molto soggettive. Poi diciamo, Antonio Villafranca, che la battaglia sembra comunque, anche senza esclusione di colpi, ma comunque favorire senz'altro Macron, almeno secondo gli ultimi sondaggi. Vedo questo nuovo sondaggio Opinion Way, avrebbe 20 punti di vantaggio Emmanuel Macron, del leader del Movimento En Marche, in vista del secondo turno. Addirittura vincerebbe col 60% dei voti e Le Pen avrebbe il 40%. Comunque questo dibattito televisivo è considerato da più parte, da più analisti, come decisivo. Ma guardi, stavo guardando anch'io il dibattito televisivo, e anche a me aveva colpito appunto il fatto che lei immediatamente, proprio alla prima domanda, avesse definito Macron il candidato della globalizzazione selvaggia e della precarietà, messo lì da Hollande. È andata subito, diciamo, è entrata subito a gamba tesa, noi diremmo con gergo calcistico. Ma lui secondo me si è difeso molto bene sul primo tema che è stato toccato, che è stato quello della disoccupazione. Ha parlato lui per primo e ha iniziato a dire quali sono, qual è la sua idea per combattere la disoccupazione, che vuol dire essenzialmente maggiore flessibilità anche per quanto riguarda l'orario di lavoro, anche per quanto riguarda i contratti che possono essere fatti, la contrattazione anche negoziale che viene fatta con i sindacati, che potrebbe essere, diciamo, portata sempre più a livello delle aziende, quindi ricalcando anche un modello tedesco, ma tutto questo anche con una maggiore appunto sicurezza per il lavoratore, per il suo salario, per il suo lavoro, quello che noi chiamiamo, diciamo, flexicurity. Poi la parola invece è passata alla Le Pen, la quale ha continuato ad attaccare Macron praticamente, dicendo che lui e non gli interessa il patriottismo economico, lei invece è la fautrice di questo patriottismo economico, e Macron appunto gli ha detto: ma non stai proponendo nulla. E quindi questo credo che sia stato un primo gol di Macron, che è sicuramente meno sorridente, ma ha cercato di riportare il discorso sul fatto: sì, io sarò anche stato ministro delle finanze francese con Hollande, ma tu di economia non ne capisci nulla. Francesco Maselli, quali sono nel loro, per quanto riguarda il loro programma, diciamo, i punti principali che li distinguono? Si è detto più volte che questo confronto, questo scontro tra queste due personalità, tra questi due candidati, è un po' lo scontro tra europeisti e antieuropeisti? Sì, non è del tutto così, nel senso che sicuramente l'Europa è un grande tema al centro di questa campagna elettorale, non se ne è mai parlato così tanto, e i due candidati hanno una visione opposta dell'Unione Europea. Macron mette, diciamo, come pregiudiziale, diciamo, a qualunque riforma che bisogna fare in Francia, il fatto che bisogna prima portarla a livello europeo. Per fare un esempio, il problema dell'immigrazione, che è molto sentito in Francia e che Marine Le Pen propone di risolvere chiudendo le frontiere, Emmanuel Macron propone di istituire una polizia di frontiera europea che possa quindi controllare i confini europei, che lui chiama confini europei nostri, non i confini francesi. Ecco, già questo è una grandissima linea di demarcazione, ma in generale abbiamo uno scontro tra economia aperta, società aperta, che quindi diciamo accetta la sfida del futuro, è anche più ottimista, e invece una visione di società più chiusa che vuole chiudere le frontiere non solo agli uomini ma anche alle merci, perché una delle grandi proposte di Marine Le Pen è inserire dazi alle merci che entrano in Francia e inserire questo concetto di patriottismo economico, cioè dare la priorità per esempio alle aziende francesi nei appalti pubblici. Queste sono tutte cose che chiaramente con le regole attuali dell'Unione Europea è molto complicato fare. Dopodiché i due hanno anche una visione opposta della spesa pubblica. Macron propone comunque una serie di tagli alla spesa pubblica, vuole sopprimere 120.000 posti nella funzione pubblica. Marine Le Pen al contrario vorrebbe fare investimenti, vorrebbe riportare la pensione a 60 anni, oggi a 62. Per cui vediamo che anche dal punto di vista della fiscalità ci sono proprio delle grandi visioni che si affrontano e che si oppongono. Dopodiché anche sulla politica estera i due sono gli antipodi, perché Macron fa un discorso un po' più atlantista, per cui asse privilegiato con gli Stati Uniti, di cui per esempio la telefonata che gli ha fatto Barack Obama nel primo turno è stata esemplificativa di quanto Macron abbia scelto da che parte stare, diciamo, e nello stesso momento Marine Le Pen volava a Mosca per essere ricevuta da Vladimir Putin, per cui anche questo è un grande scontro che si sta giocando in queste elezioni presidenziali, cioè la Francia da che parte sta all'interno di questo nuovo scacchiere internazionale che si sta delineando, soprattutto con le elezioni di Donald Trump agli Stati Uniti. Sono tutti un po' una campagna forze del bene contro forze del male a cui stiamo assistendo, a seconda di come la vediate, chiaramente. Certo. Antonio Villafranca, queste elezioni con la probabile vittoria di Macron, come potrebbero poi incidere sul resto d'Europa, sull'Unione Europea? Beh, se vincesse Macron è evidente che ci sarebbe un vento anche nuovo. Ovviamente tutto andrà sempre poi ponderato con quello che succederà anche in Germania, perché non dimentichiamo che tra qualche mese si vota in Germania e qualcosa potrebbe cambiare a seconda che poi vinca Schulz o ancora una volta la Merkel. Però tendenzialmente quello che noi ci possiamo aspettare è anzitutto andremo verso una forma di difesa comune, questo Macron l'ha già chiarito e dichiarato più volte, come si diceva prima, anche un controllo comune delle frontiere, ma anche un rafforzamento dell'Eurozona. Ad esempio Macron propone di creare la figura del ministro delle finanze dell'Eurozona e la creazione anche di un bilancio dell'Eurozona, quindi non aumentare il bilancio dell'Unione Europea ma creare un bilancio dell'Eurozona. Su questo noi sappiamo benissimo che ci sono delle resistenze tedesche che potrebbero essere diciamo più basse, meno forti se fosse Schulz appunto a vincere in Germania. Se invece vincesse la Le Pen è inutile andare tanto per il sottile, si metterebbe in dubbio la stessa esistenza dell'Unione Europea così come la conosciamo oggi. Lei prima diceva che bisognava uscire dall'Unione Europea, adesso dice che prima avvierebbe una consultazione con gli altri paesi europei, ma se da questa consultazione non venisse fuori nulla di buono, allora vorrebbe fare il referendum chiedendo ai cittadini di uscire. Per quanto riguarda l'euro, prima diceva usciamo subito dall'euro, torniamo al franco francese, adesso dice no, dobbiamo considerare l'euro non come la moneta unica europea ma una moneta comune. Cosa questo voglia dire è difficile interpretarlo, probabilmente pensa a una coesistenza di un euro con il marco, con il franco francese, insomma una situazione devo dire non chiara assolutamente, ma sicuramente pericolosa per quella che è l'Europa così come la conosciamo oggi. Tra l'altro, per dare così diciamo una nota di leggerezza, vedo tutti e due i candidati hanno scelto il blu come i loro occhi, sono due occhi che si fissano negli altri, due occhi blu, sono due candidati con gli occhi di un colore molto particolare, così come anche il loro abito che hanno scelto per questa sera. Direi di fermarci qui, mancano pochi giorni, ci sarà magari ancora occasione nei prossimi giorni di parlare di questo ballottaggio, di queste ultime colpi di campagna elettorale fino a domenica 7 maggio, in cui appunto ci sarà un vincitore o una vincitrice, Marine Le Pen o Emmanuel Macron. Grazie a Francesco Maselli da Parigi e Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie. Ci fermiamo brevemente per la vostra interazione qui Effetto Notte, se avete messaggi o sulla pagina Facebook del programma o al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. D'assumer son bilan. Mais moi, j'assume totalement c'est mon bilan. Hein. Le problème, c'est que vous n'êtes Marine pas capable de Marine citer on viendra tout un à l'heure. Cas industriel probant Emmanuel sur mon bilan. On va pas refaire le même débat en boucle. On non, viendra tout à l'heure sur Madame le chiffrage. Madame Le Pen voudrait que je porte le fardeau non. des 20 dernières sur le années. Continuano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberto Giordano sempre con voi. Sono i due sfidanti per le presidenziali francesi e la verità arriverà domenica 7 maggio col secondo turno. Ci sarà il ballottaggio e quindi proseguono, vi dicevo, in questo ultimo duello televisivo Emmanuel Macron, il centrista Emmanuel Macron, candidato e leader del movimento En Marche, e Marine Le Pen dell'estrema destra, leader del Front Nazionale. Si stanno attaccando duramente l'un l'altro, dicevamo prima con gli analisti, gli esperti che abbiamo sentito, ci sono più attacchi personali da parte di Marine Le Pen a Macron. Macron dice tu parla piuttosto del programma che intendi semmai dispiegare se mai fossi eletta presidente. Non lo seguiremo oltre perché va avanti due ore e mezzo, pensate, due ore e mezzo questo duello TV. E fra l'altro tutto molto curato, molto preciso. Pensate che hanno deciso la temperatura anche sin dall'inizio. Nello studio deve essere tra i 19 e i 20 gradi. Evidentemente già surriscaldato l'ambiente non ha bisogno di essere scaldato di più. Invece noi continuiamo a scaldarci con gli argomenti perché tra poco torneremo sulla polemica che ha seguito le accuse in questi giorni, in queste settimane, del procuratore di Catania su ONG, su organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. Intanto però, mentre proseguono i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, molti li vedo anche sulla dichiarazione di Gabrielli a proposito di troppa parte di forze dell'ordine utilizzate per le partite di calcio, dice uno scandalo, il nostro paese non se lo può permettere, su pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Prima di passare al prossimo tema, vi ricordo che i fatti principali sono questi. Migranti in audizione al Senato, il procuratore di Catania Zuccaro insiste, tra le organizzazioni non governative non sono tutti filantropi, da dove arriva tutto questo denaro, e sottolinea è impossibile ospitarli tutti. Legittima difesa, no di Berlusconi, salta l'accordo, non basta l'emendamento PD contro le aggressioni di notte in casa. All'Italia il governo assicura niente spezzatino, va venduta intera. Presidenziali francesi, ne abbiamo appena parlato, a reti unificate, stasera l'ultimo duello tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del ballottaggio di domenica. Brexit, i costi del divorzio del Regno Unito dall'Europa sono il terreno del primo duro scontro fra Bruxelles e Londra. L'anziano spinto giù dagli scogli in Puglia, fermati due minorenni accusati di omicidio volontario e rapina. Roma, un senegalese muore dopo i controlli antiabusivismo nella capitale. Forse per infarto, secondo i testimoni senegalesi sarebbe stato investito dai vigili, ma la polizia precisa nessun inseguimento. E per il calcio è la sera di Monaco-Juventus che si giocano l'andata della semifinale in Champions. Dario Ricci poi ci aggiornerà, c'è? Sì, la Juventus è sempre in vantaggio, Dario, dal Principato di Monaco? Sì, dal Principato di Monaco, da Monte Carlo, siamo nell'intervallo qui allo stadio Louis De Juventus, ovviamente sempre in vantaggio per 1-0, decide finora la rete al 29esimo di Gonzalo Higuaín, un contropiede straordinario da parte dei bianconeri, colpo di tacco di Dybala per Dani Alves, l'appoggio per Higuaín che ha restituito palla al brasiliano che si è portato al centro dell'area, ancora di tacco ha restituito al sopraggiungente Higuaín che di destro ha battuto Subasic, l'1-0 che è arrivato dopo un buon inizio da parte della Juventus, ma anche tanta sofferenza. Al 16esimo e al 19esimo ha pensato Gigi Buffon con due interventi prodigiosi a salvare la porta juventina da tutti sotto misura di sinistro di Mbappé, e poi il colpo di testa al 19esimo destinato sotto al set di Radamel Falcao in questo caso Buffon ha deviato in calcio d'angolo. Fra pochi istanti inizierà il secondo tempo, Juventus in vantaggio a Monaco per 1-0, decide finora Gonzalo Higuaín. Grazie da Luigi da Monte Carlo. E adesso invece saluto Valentina Furlanetto, la nostra Valentina Furlanetto. Sì, buonasera Roberta. Ciao Valentina. Allora, parliamo dell'audizione che c'è stata oggi del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, magistrato che sappiamo al centro delle polemiche in queste settimane per l'inchiesta sui legami, presunti legami tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. Oggi questa audizione davanti alla Commissione Difesa del Senato ha confermato Zuccaro punto per punto quanto detto nei giorni scorsi su presunti legami, cioè non ci sono prove utilizzabili in un'aula di tribunale, ma c'è da indagare. Ha detto che ci sono contatti radio, comunicazioni tra trafficanti appartenenti ad alcune ONG, ONG a disposizione della procura etnea, non arrivano dagli 007 come sembrava fosse stato detto nei giorni scorsi, ma da Frontex, questa agenzia europea che monitora i movimenti insomma nel Mar Mediterraneo, e dalla Marina Militare. Non ho chiesto ai servizi di intelligence di avere dei dati perché non li potrei usare, quelli in mano alla procura di Catania sono invece appunto vengono da Frontex e dalla Marina Militare. E ha detto: a volte accanto ai migranti delle navi sospette, ci sono delle navi sospette, e tra le organizzazioni non governative appunto non tutti sono filantropi. Vogliamo sentire alcuni passaggi, sentiamo intanto un passaggio di Zuccaro. Aggiungo che la presenza degli organici di alcune organizzazioni non governative di persone con un profilo non collimante con quello dei filantropi appare di indubbia rilevanza e giustifica a mio avviso delle indagini in tal senso. Questo è un punto sul quale io ritengo che venga posta la massima attenzione. Ecco, qui appunto dice che non sono tutti filantropi e poi dice che ha dichiarato oggi Zuccaro che ci sono alcune organizzazioni non governative che hanno operato in acque libiche, cioè praticamente con le navi, secondo Zuccaro, sono andate addirittura oltre la pertinenza nel Mediterraneo che ci spetta, sono andate proprio verso la Libia a raccogliere questi migranti. Sentiamo. In alcuni casi sono state varcate i confini delle acque territoriali libiche. Questo è un dato che è a mia disposizione, è un dato che non posso processualmente oggi utilizzare, ma che mi viene fornito con certezza. Ovviamente non ci farei mai, non lo potrei, né mi sognerei di farci un processo, ma segnalarlo nella sede politica perché mi dia gli strumenti per poterlo provare, questo io credo di avere il dovere di poterlo fare. E sentiremo poi altri passaggi e ne commetteremo con Valentina Furlanetto, adesso però c'è la viabilità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, a parte le notizie principali, abbiamo seguito in parte il dibattito televisivo a reti unificate in Francia tra i due contendenti all'Eliseo, quindi Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Adesso invece siamo sull'altro argomento importante della giornata, che è questa polemica che continua sulle accuse del procuratore di Catania nei confronti delle organizzazioni non governative, di questa presunta collusione con i trafficanti di esseri umani, e la sua audizione oggi in Senato in cui ha ribadito e confermato le sue accuse. Siamo con Valentina Furlanetto in collegamento, la nostra Valentina Furlanetto. Vorrei far sentire anche Zuccaro quando parla per esempio dei magistrati che non denunciavano, fa questo paragone con magistrati che non denunciavano i fatti mafiosi tanti anni fa, e adesso lui si sente un po', dice, un po' nello stesso ruolo. Mi ricordo che nella nostra Sicilia, quando qualche magistrato per prima iniziò a dire che vi erano delle imprese colluse, infiltrate da organizzazioni mafiose, si sollevò un grande scandalo dicendo che si voleva deprimere l'economia siciliana, perché così si impediva alle industrie, alle imprese di poter lavorare. Secondo voi quei magistrati che hanno richiesto strumenti, e alcuni di questi sono morti per questo, si ponevano il problema di che cosa, che forse alcune imprese avrebbero potuto essere trascinate nel sospetto, oppure avevano il dovere di fare questa denuncia? Quindi Valentina, insomma, di nuovo ha ribadito queste, addirittura dice io sono un po' come un precursore, forse come allora certi magistrati che tiravano fuori crimini mafiosi, in questo caso io sto dicendo... Ho risentito, io l'ho sentito il procuratore Zucchero oggi, come l'ho sentito 2 settimane fa in commissione Schengen. Se lui è un precursore, io sono insomma un'antica precursrice della possibilità di poter parlare dell'ONG in maniera sobria, senza essere accusati di lesa maestà, perché fanno del male. Perché, come forse qualcuno saprà, ho pubblicato un libro qualche anno fa, L'industria della carità, proprio segnalando e denunciando la poca trasparenza di alcuni bilanci di alcune ONG e le troppe spese per staff e marketing. Questo lo dico perché non posso essere accusata di benevolenza nei confronti delle organizzazioni non governative. Sì. Come punto di partenza. Però devo dire che mi lascia molto perplessa la deposizione e l'audizione del procuratore Zucchero, perché mescola molte cose: la mafia, i trafficanti, l'accoglienza in terra, l'accoglienza e il soccorso in mare. Bisogna sottolineare che chi fa soccorso in mare, tutte le organizzazioni, nessuna di queste è lo stesso soggetto che poi fa accoglienza sul territorio italiano. Quindi non si vede quale tipo di interesse avrebbero nel portare i migranti in Italia, perché il teorema sarebbe quello che li portano in Italia e poi guadagnano sugli soldi che l'Europa e l'Italia stanziano per l'accoglienza in Italia, no? Però non c'è nessun collegamento fra le due cose. Quindi mette assieme tante cose, si è anche sbilanciato fino a dire che l'Italia non può ospitare tutti i migranti. Ecco, a questo proposito, Valentina, sentiamo proprio questo passaggio che effettivamente forse ha lasciato un po' perplessi, al di là che uno possa avere anche ragione a dire che l'Italia, penso ormai lo pensino in tanti, no? Non può accogliere tutto questo flusso continuo di migranti, però forse non è pertinenza probabilmente di un magistrato che dovrebbe indagare, occuparsi di questioni penalmente rilevanti. Sentiamo proprio questo passaggio. Probabilmente è necessario non lasciare, fermo restando che il volontariato è una cosa fondamentale, che il volontariato deve supplire laddove ci sono carenze e non ci possono essere negli stati, ma è evidente che questo volontariato, laddove si tratta di situazioni che ormai si sono profondamente radicate, non sono emergenziali ma strutturali, debbono essere gestite direttamente dagli stati e non solo dall'Italia. Perché chiaramente non credo che l'Italia si possa far carico di tutti i migranti che vogliono venire per varie ragioni in Europa. Ecco, effettivamente questo è una sottolineatura, un commento che forse poco ci stava in bocca a un magistrato. È un commento lecito, ma appunto certo. È una valutazione politica che esula dal ruolo per il quale è stato sentito in commissione difesa. Aggiungerei, Roberta, per dare altri elementi agli ascoltatori, che quando lui dice che c'è stato uno sforamento nelle acque libiche delle navi, bisogna sottolineare che questo non è un reato, lo fa tutti i giorni la Marina italiana con la missione EUNAVFOR Med, la missione Sofia, e lo fanno i mercantili, perché proprio la missione di EUNAVFOR Med è quella di andare sotto costa, perché missioni per cui è stata creata c'è anche quella di intercettare sotto costa le navi. La Guardia Costiera, il Comitato Schengen, proprio oggi, nella persona del contrammiraglio Nicola Carlone, di cui si parla meno, però anche lui è stato in audizione oggi al Comitato Schengen alla Camera, ha detto di non avere prova di presunte complicità fra ONG e trafficanti. Ha detto letteralmente: la presenza delle navi dell'ONG davanti alla Libia non rappresenta un fattore di attrazione per i trafficanti. E ha anche invitato a guardare in un'altra direzione, cioè a Malta. Dice: le responsabilità maltesi sono tante, continua Malta a negare l'attracco nei porti dell'isola alle navi cariche di migranti. Vogliamo sentire anche questo passaggio su Malta, sentiamolo di Zucchero. La Convenzione di Amburgo prevede effettivamente che venga portata nel porto più sicuro tra quelli vicini. E tuttavia, rendiamoci conto che nel Mediterraneo centrale vi sono 3 aree SAR che sono state concordate in sede internazionale. Le aree SAR che interessano la fascia più di competenza del mio ufficio sono l'area maltese, immensa, l'area italiana, notevole, l'area tunisina. Malta non risponde. Tunisi dice chiaramente che non ne vuole sapere. L'area SAR italiana è l'unica che chi voglia salvare vite umane riesce a contattare. Quindi sottolinea anche il procuratore. Prego. Questo era il procuratore, dico, anche la Guardia Costiera ne ha parlato ieri, Nicola Carlone, appunto questo ammiraglio a capo delle operazioni della Guardia Costiera, e diceva precisamente che Malta si sottrae dalla responsabilità. Mi invito anche a guardare a una delle fonti che il procuratore dice di tenere da conto quando parla di questi suoi sospetti, ossia Frontex. Noi questa mattina abbiamo mandato in onda su Radio 24 una controcopertina cercando di illuminare che cos'è Frontex. È un'agenzia con sede a Varsavia sulle frontiere europee, non ha una missione di salvataggio ma di monitoraggio. Il budget è lievitato in 2 anni ed è raddoppiato, compreso lo staff. Allora, nel momento in cui Frontex fa un rapporto, giustamente indagando, come dicevo prima, non ci sono tabù e non ci sono cose su cui non si può indagare. Le ONG vanno guardate in maniera neutra, laica, non pensando che sono i buoni del caso, ma non sono neppure i cattivi del caso, quindi vanno guardate una per una e fatte le dovute distinzioni. Quello che Zucchero non fa è distinguere, perché è vero che dice che MSF, Medici Senza Frontiere, Save the Children sono forse al di là di ogni sospetto, però non dice chi è il sospettato, non c'è un'indagine vera e propria. Questo getta ombre un po' generalizzate, no? Come è stato detto in questi giorni. È un po' generalizzata, sì, l'accusa, e questo non fa bene, non tanto al terzo settore, di cui in questo momento non so, ma cioè, ci importa fino a un certo punto, ci importa, ma certamente è importante anche la verità. Ma non fa neanche bene alla verità, perché tutto sommato si fa salire una nebbia che crea una certa confusione. Quando ti dicevo, quando lui mescola le carte, dice questi soccorsi in mare e sappiamo che a terra c'è un'accoglienza, un business dell'accoglienza, facendo riferimento al CARA di Mineo, alla situazione di Cona, che sapete gestita da una cooperativa che è sotto inchiesta, però sono cooperative o associazioni che nulla hanno a che vedere con le ONG che sono in mare, quindi c'è un mescolamento di carte che non si capisce fino in fondo, che anche non fa perché bene il procuratore di Siracusa, che ha parlato anche lui stamattina, ieri ha detto che non risulta, anche oggi. Esatto. Che non risulta. Vedremo domani cosa dirà il CSM, no? Perché dovrà decidere su Zucchero domani. Il Ministero della Difesa ha detto che non interverrà. Orlando, che aveva preso le distanze da Zucchero, ha detto che non c'è nessun illecito. Però dobbiamo vedere domani il Consiglio Superiore della Magistratura. Vedremo che cosa diranno. Benissimo. E vedremo anche cosa dirà MOAS, una delle ONG, quella maltese. Chiarissimo. Valentina Furlanetto, ci dobbiamo lasciare perché qui è solo una delle tante puntate di questa vicenda, mentre Dario Ricci ci deve dire cosa succede a Monte Carlo. Dario. Il 45esimo del gioco allo stadio Luigi, Juventus ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Gonzalo Higuaín al 30esimo di gioco, inizio di ripresa in cui il Monaco ha cercato di forzare il ritmo alla ricerca del pareggio, bravo ancora una volta Buffon, già decisivo in 2 occasioni nel tempo, al 47esimo a bloccare il destro di Radamel Falcao, calciato da distanza ravvicinata, ma Juventus vicino al raddoppio al 54esimo, Marchisio recupera al limite dell'area, si porta tu per tu con Subasic che lo ipnotizza, riesce a deviarne il diagonale destro. 58esimo di gioco in questo istante, mentre la Juventus è ancora in avanti sulla tre quarti offensiva. Grazie. Juventus 1-0. Grazie Dario Ricci, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.